forse, ma adesso fa lo stesso. Dal pensiero fisso mi ritorni in mente, mentre niente è più importante. Luna calante su una stella nascente, mentre niente è più importante. Vedo un nuovo mondo, un nuovo sogno, un nuovo giorno, un nuovo contorno. Ed intorno scorgo un velo, faccio al cielo nero, fino al giorno nuovo, forse il giorno primo, il giorno vero, avvolto nel suo mistero. Scivola sino innanzi al suo cammino, distinto inizio di un declino. Intanto io rimango solo innanzi al mio cammino, e lo imposto passo dopo passo come un puzzle, pezzo dopo pezzo. Disegno fuori dalla cornice, a larghi tratti di vernice. Mi vedi sorridere, felice io, non recito la mia parte nella commedia della vita. E se resta un destino, ho scelto di non seguirlo. Se decidere non sono io, se resto io, resto un MC innanzi al mare, a rimare del male che ne c'è nel bene come nel Tao. Una linea netta di rivincita, una meta per semplicità che pur se implicita poi tanto non ci sta o non si trova e si covra ancora. Lascio un amaro sapore, nero il colore, l'ho scritto chiaro, lo penso a tratti. Fine ma di che? Di un destino se c'è, inizio di un addio, di un avvio. E a chi resta? Resto io, reso un nome, un come, un dove. Suona grave, suona male, il cuore batte piano e lento sei via all'inizio del suo declino. Io che vivrei di te, ora so che per me c'è un vuoto che è incolmabile. Resti raggiungibile, tu per me emozioni irripetibili. Momenti tragici e commedie in cui i drammi si consumano solo in una stanza, rinchiuso in quella prigione da una stupida sentenza. Cerco altrove la mia forza, non più laddove ora resta solo un vuoto. Cerco altrove la mia mente, cerco ora un punto fermo. Io nel freddo del mio inverno tremo sapendo che non c'è giorno e che quanto finora fatto domani sarà solo immagine di un letto sfatto. Navigo su quel relitto in un mare che sembra dipinto, fino all'orizzonte spinto, in preda a mille venti e da correnti di chi ad oggi ha finto. La notte seguirà i vuoti da te lasciati. Uomini sono stati tralasciati, liberi di sognare ma non di sperare, liberi sì di guardare ma con occhi socchiusi. Sì, ci sono state mille scuse, per me mille accuse, tra mille pretese, tra mani tese, corse perse ed altre vinte, tra mille vincite, tra mille sconfitte.